Festival Sociale delle Culture Antifasciste. Dal 29 maggio al 2 giugno, Parco delle Caserme Rosse, Corticella, Bologna. Domenica 31 maggio, dalle ore 11, Laboratorio Bande Partigiane, prima parte. Dalle 11 alle 14, prosegue il tavolo Antifascismo e Territori, seconda parte. Dalle ore 14, dibattito, i rossobruni, destre ambigue e infiltrazioni, con Valerio Evangelisti. Ore 14, presentazione del libro Romantica Gente, di e con Daniela Lucatti. Dalle ore 15, incontro reti migranti. Ore 15, dibattito sul libro All'estrema destra del padre, di e con Emanuele Del Medico. Dalle ore 16, presentazione del fumetto In Italia son tutti maschi, di Luca De Santis e Sara Colaone. Ore 17, Anarchy in the United Europe, movimenti Pink, Black, Green e Grande Recessione, di e con Alex Foti. Dalle ore 17, dibattito, crisi socio-economica e svolta a destra. Ore 17, presentazione della rivista Rizomi di Esistenze, a cura di Versitudine. Dalle ore 17.30, assemblea del tavolo LGBTQ e antifascismo, seconda parte. Ore 18, vite senza permesso, interviste ad ambulanti immigrati, di Manuela Foschi. Dalle ore 18, presentazione del libro Italia Underground, di Angelo Mastrandrea. Ore 19, presentazione del libro Femminicidio, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, di Barbara Spinelli. Dalle ore 20, videoproiezioni sulle lotte dei migranti a Bologna. Ore 19, improvvisazione musicale con Claudio Lolli, Paolo Capodacqua, Germano Bonaveri. Dalle ore 20, Dr. Dre e CRC Bosse in concerto. Alle 21, sonorità slave, greche, ebraiche, arabe, turche e rom, con i Tri Musiker. Dalle ore 23.30, Cineforum.